L'altro giorno mi è arrivata con la tradizionale puntualità la nuova carta di credito, in sostituzione di quella che va in scadenza questo fine mese. E mentre zelantemente ne trascrivevo i dati sull'apposita agenda per poter intervenire con contezza di causa in caso di furto, smarrimento, distruzione o altra calamità, mi sono reso conto di un particolare inconsueto. E mentre di solito quei documenti hanno la durata di 2 o 3 anni, quest'anno la scadenza è stata misteriosamente anticipata. La mia nuova carta di credito vale solo fino al febbraio 99, tra meno di un anno. Poi si vedrà. Ecco, lì per lì ho avuto l'impressione di essere stato in qualche modo retrocesso o punito per qualche colpa misteriosa di cui non mi ero reso bene conto. Poi un rapido esame di coscienza bancaria mi ha permesso di escludere questa ipotesi fastidiosa e mi è venuto in mente che probabilmente la scadenza al 99, che è la società che gestisce il servizio procura indubbiamente più fastidi di quanti ne procuri a me, è stata imposta da motivi informatici. Sì, perché lo sapete anche voi, no? I sistemi informatici attualmente in uso indicano la data in vari formati, ma sempre con 6 cifre, 2 per il giorno, 2 per il mese e 2 per l'anno. Per cui quando si tratta di indicare delle date successive a quella del 1 gennaio 2000, 010100, non sono in grado di riconoscerle e confondono l'alba del nuovo millennio con il 1 gennaio del 1900, che come data si abbrevia nello stesso modo, e vanno inesorabilmente in tilt. Dichiarano già operanti da 100 anni delle proscrizioni che dovrebbero entrare in vigore dopo il 31-12 dell'anno prossimo e creano, data la quantità di rapporti che ormai vengono gestiti in via automatica, compreso quelli delle carte di credito, una confusione incredibile. Chi ha una bolletta che scade il 15 gennaio del 2000 avrà buone probabilità di vedersi automaticamente conteggiato un secolo di mora con gli interessi. Tutti gli invii periodici in abbonamento dovrebbero cessare istantaneamente. E i neonati iscritti allo Stato civile correranno il rischio di essere considerati centenari ex officio e probabilmente renitenti alla leva. I giornali si sono occupati già a lungo del problema e hanno anche calcolato quanto costerà correre ai ripari modificando tutti i sistemi attualmente in funzione in modo che tengano conto del cambiamento di secolo. Io non mi ricordo la cifra con precisione, ma è impressionante. Sono tante di quelle migliaia di miliardi che basterebbero ampiamente a sanare il debito pubblico dello Stato italiano e oltre. Sì, certo, non tutti i computer in uso avranno bisogno di aggiornamento. Chi come me usa il malefico strumento per scopi individuali non dovrebbe avere difficoltà a capire che un file datato nell'anno 00 non è stato prodotto nell'anno 1900, quando né lui né il computer aveva la fortuna di esistere. Ma sapete come vanno le cose nel mondo dell'informatica, no? Un sistema aggiornato tende a prendere il posto di tutti i sistemi non aggiornati, a prescindere dall'obiettivo utilità per l'utente dell'aggiornamento. Se non avete previsto di spendere tra un paio d'anni quei 5 o 6 milioni di lire, o diciamo, facciamoli aggiornati, quei 300-400 mila euro per un nuovo apparecchio, affrettatevi a ristrutturare il vostro bilancio. Spenderli dovrete. Il che ci porta a un'importante domanda chiave. Ma non potevano pensarci prima? In fondo, se le basi teoriche dell'informatica risalgono agli anni 30, la sua diffusione di massa è una faccenda piuttosto recente. I sistemi in uso, per quel che ne so, non devono risalire molto più in là della fine degli anni 70, inizio degli anni 80, quando la prospettiva della fine del secolo e dell'inizio del nuovo millennio non incombeva proprio come adesso, ma non si riferiva neanche a un futuro tanto remoto che nessuno potesse pensarci. Che mancassero pochi lustri a quell'importante cambio di data, qualcuno tra i tanti cervelloni che affollavano Silicon Valley e gli altri centri della nuova industria sarebbe stato in grado di prevederlo, no? A quanto pare no. A quanto pare l'homo informaticus vive concentrato nel presente, al punto da non poter prendere in considerazione un futuro che dista solo pochi lustri. Sull'argomento si potrebbero sviluppare considerazioni gustosissime e non mancheranno i moralisti disposti a svilupparlo, ma in questa sede ho deciso di risparmiarvele, e di risparmiarvele soprattutto perché non ci credo. Io sono convinto che nel complesso gli operatori dell'informatica abbiano non meno degli altri i piedi saldamente piantati per terra. e per questo abbiano capito con forte anticipo ben prima degli anni 70 che chiunque avesse proposto alla sua ditta un'elaborazione di un sistema in grado di durare oltre il 31 dicembre del 99 aveva buone possibilità di essere licenziato sui due piedi e vedere il suo nome scritto sull'apposito libro nero. E che i media, che dall'informatica in gran parte dipendono, sono autorizzati a parlare del problema soltanto adesso, quando l'incombere della scadenza rende imperativo correre ai ripari costi quel che costi. Perché capirete, la prospettiva di tutto un settore merceologico che diventa obsoleto da un momento all'altro e data la sua indispensabilità nell'odierna organizzazione del lavoro va sostituito a qualsiasi prezzo, non deve essere mica tanto sgradita alle imprese del settore. Quello di mettere sul mercato prodotti di cui si prevede la rapida decadenza per garantirsi un ritorno di clientela a scadenza non troppo remota è un vecchio vizio dell'industria contemporanea. E nei mesi scorsi ci è capitato di parlare di frigoriferi che non durano più di 10 anni, di automobili che vanno in pezzi in metà di quel tempo e così via. La vita media di un computer oggi come oggi essa gira sui 3-4 anni, ma non perché l'oggetto in sé si sia usurato, i computer in sé sono dei mostri di durata. Non avendo parti meccaniche che si possano usurare né valvole che si esauriscono, potrebbero durare per almeno un decennio se non di più. E appunto per questo, no, che bisogna fare qualcosa in proposito, la scadenza di fine millennio sembra inventata apposta. Al primo programmatore che si è reso conto di quello che sarebbe successo in quella data e che ha consigliato a chi di dovere di far finta di niente, e probabilmente a Silicon Valley hanno già eretto un monumento. I see trees of green, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful